Io se ho 63 anni, ti sto chiedendo, vado a lavorare io. In Italia non ho mai lavorato, che bel lavoro vado a fare? Ti spiego. Io penso anche per i cazzi miei, io ho pensato anche i cazzi miei, a me me ne frega perché ti chiedo, penso anche i cazzi suoi, mica pensa a me. Perciò, se fatti un po' con le cazze tu, non rompere i coglioni più. E andiamo avanti così, anche tutti, manca un anno. Vabbè, meno di un anno. Meno di un anno e entra il vitalizio, che cazzo te le fotte, tante queste sono tutte malviventi, questi pensano solo i cazzi loro. A te, non ti penso nessuno, te lo dico io, per amico, te lo dico da amico. E questo se ti possono incullare, ti incullano senza vasellina nemmeno.